noti a me solo di tuoi fatali amori come d'oro, e non temi la vendetta d'Orlando. È ver che devo molto al Nerone, ma... Già sen vien, cedato mi terrò per vegliar d'ognuno il fato. Quando mai troverò l'orme vocati d'angelica la bella? O dei, se vien Medoro che qui attendea per partir seco, e forse se Orlando qua conduce il nuovo amore per quello che salvò da pandemica, non sarà così grande il mio timore. Vo fingermi cirusa per meglio di scoprire il suo pensiero. Orlando, ed è pur vero che io qui ti vedo, Geni. E come potevo mai sperarsi lieta sorte, Angelica, mio bene? Erga il nome, Isabella, vuoi dir che nata attende? Son della principessa difensor, non avanti, ma per tale di pubblico Dorinda allora. E quando un'angelica sol cuore Orlando, ma odei vedo Medor convien che Orlando allontani di qua. Vuoi che io ti creda a me fedel, pronto da te allora.